24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:23 minuti, buona settimana da 24 mattino in diretta fino alle 9. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio che già potete votare su radio24.it della manifestazione del 12 marzo in piazza per difendere la Costituzione e la scuola pubblica? Siete d'accordo con questa manifestazione? Ne parliamo alle 8:30. I giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 7 marzo. Le aperture sono davvero diverse oggi, ogni quotidiano fa la sua scelta, Il Sole 24 Ore, conciliazione per le imposte, i gradi di giudizio scenderanno da 3 a 2, la riforma del processo tributario allo studio. Per il Corriere della Sera, la vigilia dell'8 marzo, le donne tra maternità e lavoro, tutti i numeri del ritardo italiano. Poi c'è chi sceglie la Libia, Gheddafi minaccia l'Europa, questo Repubblica, anche Il Messaggero, Gheddafi l'Europa sarà invasa, vedremo. Altre aperture più avanti, io voglio partire dalle due consuete segnalazioni. La prima viene dal Giappone, dove si è dimesso il ministro degli esteri. Perché? Ha accettato, e la legge non lo consente, dall'estero donazioni per 2.180 euro. 2.180 euro. Se 2.000 euro bastano a far cadere un ministro. Questo è il titolo del Secolo XIX, ma anche sul Corriere della Sera. Giappone, ministro lascia per un assegno, qui gli euro diventano da 450 euro. In realtà l'ultimo assegno scoperto, avendo ricevuto una donazione da una cittadina della Corea del Sud, ed è vietato ricevere donazioni dall'estero, è 2.000 euro. Lo so, poi ci saranno i paragoni soliti, in Germania si è dimesso un ministro perché ha copiato la tesi. L'Unità, Giappone, basta una mancia e il ministro si dimette. Questa è la situazione in Giappone. 2.000 euro ricevuti in 5 anni, dunque fanno una media, non lo so, i 400 euro all'anno. 2.000 euro ricevuti, si è dimesso un ministro. La seconda segnalazione dal Corriere della Sera, attenzione a voi che fate la pausa a caffè davanti alla macchinetta del caffè. In Italia pare che siano 2 milioni le macchinette installate in Italia, una ogni 29 abitanti, per un giro d'affari di 2 miliardi di euro. Il Corriere della Sera fa sapere che i produttori ora dicono stop, la stangata del caffè automatico rende amaro il rito della macchinetta. Sono previsti ormai rincari perché le materie prime costano sempre di più e dunque i produttori fanno sapere ora sarà difficile far pagare meno di 50 centesimi il caffè alla macchinetta. Ci sarà un rincaro presumibile di 15-20 centesimi rispetto all'attuale prezzo. Rincari per i 22 milioni di italiani che preferiscono il pulsante al barista. Anche il caffè alla macchinetta presto costerà di più. Buona settimana, la pubblicità e poi rientriamo. In primo piano. Siamo qui, dunque, diversi giornali puntano ancora sulla situazione libica, una situazione davvero caotica. Vi segnalo innanzitutto che il Corriere della Sera, pagina 5, pubblica l'intervista rilasciata da Gheddafi al giornale francese Journal du Dimanche, e Laurent Valdiguier che lo intervista. O me o Al-Qaeda, l'Europa ritornerà ai tempi del Barbarossa. È un Gheddafi intanto istrionico che dice, vede come va? Sono qui, lei mi sta intervistando. E poi parla di Al-Qaeda, la minaccia di Al-Qaeda. C'è questo dietro la rivolta, secondo Gheddafi. I membri delle cellule di Al-Qaeda forniscono ai giovani pastiglie allucinogene, vengono ogni giorno a parlare con loro fornendo denaro. I giovani hanno preso gusto a quelle pastiglie e pensano che i mitra siano una sorta di fuoco d'artificio. Questa è la lettura politica di Gheddafi di quello che sta succedendo in Libia. Non ha niente a che vedere con quanto è successo in Tunisia o in Egitto. Qui gli unici manifestanti sono quelli che sostengono la Jamaria. Ancora Gheddafi, che poi dice così a Obama, che lo invita ad andarsene. Lasci, io che lasci il paese. Ma dove vuole che vada? Risponde alla giornalista. E sulla Cirenaica insorta, è una regione poco popolata, nel piano attuale le abbiamo accordato 22 miliardi di dollari di investimenti, una regione della Libia un po' viziata. E poi eccola qui la minaccia di Gheddafi, il regime qui sta bene, E se si minaccia, si cerca di stabilizzare, se arriverà la confusione a Bin Laden, migliaia di persone invaderanno l'Europa dalla Libia. Bin Laden si installerà nel Nord Africa, lascerà il Mullah Omar in Afghanistan e in Pakistan, avrete Bin Laden alle porte, ci sarà una jihad contro di voi, la sesta flotta americana sarà attaccata, si compiranno atti di pirateria a 50 km dalle vostre frontiere, si tornerà ai tempi di Barbarossa, dei pirati, degli ottomani che imponevano riscatti sulle navi, sarà una crisi mondiale dal Pakistan al Nord Africa. Non lo consentirò! Ecco, questo Gheddafi, il baluardo contro l'invasione degli islamici, così lui si vede. E infine sul tentativo di bloccare i beni libici, eccolo qui, chiude come è iniziato un po' istrionico. Sono tranquillo, posseggo solo questa tenda dove stiamo facendo l'intervista. Questo Gheddafi, anche se il giornale con Fausto Biloslavo inviato a Tripoli fa sapere che probabilmente Gheddafi potrebbe essere scampato ieri a un blitz all'alba, il sospetto è un tentativo di golpe quando alcuni spari si sono concentrati attorno alla zona dove lui è asserragliato, ma insomma non si capisce molto bene quale sia la situazione. Certo, quello che sta succedendo in Libia porta Obama a decidere, probabilmente sarebbe una decisione abbastanza storica, quella di usare le riserve tenute come cuscinetto per quel che riguarda il petrolio, le riserve energetiche, sono 727 milioni di barili che il governo americano ha custodito per far fronte alle emergenze, e il capo dello staff della Casa Bianca, sulla richiesta di 5 senatori, ha detto sarebbe una misura che in passato è stata presa molto raramente, ma ci stiamo pensando, perché l'aumento dei prezzi dell'energia colpisce duramente i consumatori e dunque c'è il rischio di un caro petrolio che allarma gli Stati Uniti, che dicono siamo anche pronti ad affrontare questa idea di usare le riserve petrolifere. C'è anche un fronte italiano sulla questione libica. Il fronte italiano è questo. Veltroni che dice: ma con tutte le piazze, prendo l'Unità per esempio, no? L'Unità oggi titola Piazza Continua. L'8 marzo c'è la festa della donna, domani. Il 9 marzo manifestano gli avvocati. Il 12 marzo per la scuola e la Costituzione. Il 17 marzo l'Unità d'Italia. Veltroni dice: ma una manifestazione per la Libia, no? Cioè in piazza per chiunque, in piazza per qualunque cosa e in piazza per i libici, no? Veltroni striglia il PD in piazza per i libici, questo sulla Stampa ma anche sull'Unità. Veltroni scuote i pacifisti in piazza per i patrioti libici. Questo per quel che riguarda il fronte Libia. Se invece veniamo in Italia, beh, è quello che tiene banco sicuramente l'annuncio fatto ieri, era l'apertura di tutti i giornali, di Berlusconi, che ha detto giovedì ci sarà questa riforma epocale della giustizia. Ora non c'è più tempo da perdere, bisogna farla. I magistrati sono già in subbuglio, sulle mailing list delle toghe parte l'offensiva contro il governo, a pagina 11 di Repubblica, Liana Milella: se vengono annunciate riforme epocali occorrono risposte altrettanto epocali. Questo il PM di Milano Armando Spataro. Si preannuncia dunque uno sciopero molto duro, ma vedete che ormai il fronte, e d'altronde si sapeva che sarebbe finita così, no? Il fronte è quello di uno scontro totale. Sentite il sottosegretario Daniela Santanchè, intervistata dal giornale a pagina 2 da Paola Setti. Lo dico e lo ripeto, dopo la vicenda della piccola Yara, quella di Brembate, Yara Gambirasio, la povera Yara, i magistrati dovrebbero dimettersi. Ma scusi, lei strumentalizza un fatto di cronaca nera per sferrare un attacco alla magistratura? Se avessero impiegato per le ricerche le stesse risorse e tecnologie che hanno speso per indagare sulle ragazze dell'Olgettina, forse Yara sarebbe viva. Sottosegretario, non esageri. Esagero invece. Se la sono presa coi volontari che cercavano quella povera ragazza, che invece sono eroi, hanno accusato la comunità di Brembate, e invece la colpa è dei magistrati. E poi dice, da esponente del governo dico questa volta andate avanti ai ministri, fate la riforma assolutamente, perché non si possono chiedere le dimissioni dei magistrati e dei procuratori? Li ha toccati la mano di Dio? Così Daniela Santanchè. Sarà la settimana molto molto calda su questo, però c'è la politica da una parte con le dichiarazioni e poi ci sono i numeri. E i numeri, se la matematica non è un'opinione, sono numeri. E allora io voglio prendere la pagina 13 del Sole 24 Ore, perché oggi si parla di intercettazioni. E uno degli elementi della riforma della giustizia è quella, la legge, anche riproporremo la legge dell'intercettazione, anche questo ha detto Berlusconi. Allora, queste intercettazioni, quante sono? Perché siamo un popolo di intercettati, siamo tutti lì con i telefoni che bollono, che non possiamo toccarli perché sennò ci ascolta il maresciallo di turno? Chi lo sa? Il Sole 24 Ore oggi ce lo dice. Quali sono i numeri? Fonte, il Ministero della Giustizia, dunque la fonte delle fonti. Intercettazioni record, 143.000 bersagli, ma le spese scendono. Oh, Andrea Maria Candidi a pagina 13 ci fa sapere a giugno del 2010 quanti sono i cittadini sottoposti a intercettazioni. Sono arrivati a 100.000. Nel frattempo però la spesa è scesa. Aumenta il numero delle intercettazioni, sono i cosiddetti bersagli. Attenzione però, la terminologia è importante. I bersagli dei PM nel primo semestre del 2010, i dati si riferiscono all'ultimo dato, è quello, quindi l'anno scorso, primo semestre, nei primi sei mesi, i bersagli 75.000 unità, rispetto all'anno prima che erano 68.000 nel primo semestre del 2009. Quindi 75.000 bersagli, attenzione, non vuol dire neanche persone in sei mesi, perché una persona potrebbe avere più cellulari. Sono i bersagli, le utenze telefoniche. Circoscrivendo l'analisi dei soli controlli telefonici, si può tentare di trovare la corrispondenza tra il totale annuo e il numero di persone fisicamente intercettate, in altre parole, di indagati. Di sicuro quest'ultimo è più basso di quello dei bersagli, perché è lecito appunto aspettarsi che ciascuna persona sottoposta a indagini disponga di più di una utenza. Dunque, in un semestre 75.000 bersagli, raddoppiamo per due, facciamo 150.000 bersagli in un anno, le persone intercettate sono meno, bisogna capire quante delle persone ha più cellulari. Insomma, facciamo 100.000, ecco, potremmo dire 100.000. persone intercettate in Italia in un anno. Per quel che riguarda i costi diminuiscono. Chi è che spende di più? Palermo 21.800.000 in un semestre, in sei mesi, quindi 42 milioni all'anno. Milano 16.100.000 euro, dunque raddoppiate per due per un anno, 32 milioni di euro. Napoli 11.600.000 euro in sei mesi. Catania 12.400.000 euro in sei mesi. Questo le procure. Dunque, sul Sole 24 Ore avete i numeri di quanti sono gli intercettati in Italia. L'altro aspetto politico è quello del rimpasto, rimpasto di governo, pare la settimana decisiva anche questo, il giovedì in Consiglio dei Ministri. Secondo Repubblica, Carmelo Lo Papa a pagina 10 fa sapere che dovrebbe essere caduto il veto della Lega ad avere Saverio Romano al Ministro dell'Agricoltura. Galan, dunque, dell'Agricoltura dovrebbe andare alla Cultura. L'attuale portavoce Bonaiuti del Premier è destinato a diventare ministro delle politiche comunitarie. Tre viceministri responsabili, Aurelio Misiti ai trasporti, Massimo Calearo alle attività produttive, la PDLina Anna Maria Bernini allo sviluppo con delega alle comunicazioni. Chi lo sa, sta di fatto che il vero giallo è questo, dal quale voglio ripartire dopo il traffico. In primo piano. Il vero giallo, dunque, è quello del ex ministro Scajola. Scajola ha fatto un'intervista ieri al Corriere, ha detto io non quello della famosa casa a sua insaputa, no? Non sono neanche indagato, non mi hanno mai indagato e a questo punto io voglio tornare. Scajola rivuole il suo ministero. Questo a pagina 5, il Secolo XIX, Giovanni Palombo. Ora che è chiaro che io non sono coinvolto nelle inchieste di Perugia, posso chiederti di farmi tornare in campo? Così Scajola sarebbe rivolta a Berlusconi nei giorni scorsi. Ma dove? Questa è la ricostruzione della conversazione. Al governo, ha risposto Scajola. Per quale incarico? Quello dove ero prima, lo sviluppo. Ma ormai su quella poltrona, scrive il Secolo, c'è Paolo Romani, quindi serve una svolta. La svolta nel reimpasto potrebbe essere questa. scorporare il Ministero dello Sviluppo Economico, lasciando a Paolo Romani il Ministero, la delega sulle comunicazioni, e consegnando a Scajola l'industria, come ai vecchi tempi. L'intervista ieri sul Corriere della Sera effettivamente è stata abbastanza un colpo di Fabrizio Roncone, che ha intercettato Scajola appunto dicendo, e Scajola dice: ora voglio tornare, più che al governo. Veniva dato ieri sul Corriere come coordinatore unico del partito, perché c'è anche questa questione. Su questo si pronuncia, sempre intervistato da Fabrizio Roncone dal Corriere, oggi Dell'Utri. Marcello Dell'Utri intervistato dice: il PDL va ristrutturato subito, ma su Scajola non è più suo tempo, non esiste. Così bolla il possibile ritorno di Scajola Marcello Dell'Utri. Intendiamoci, quando fece il coordinatore del partito una decina d'anni fa, Scajola assolse il compito con grande bravura, solo che adesso non mi sembra che un certo tipo di ritorno possa essere realizzabile. Poi Dell'Utri dice: do un consiglio a Berlusconi, tre coordinatori del PDL sono troppi, sono Bondi, La Russa e Verdini, e quale sceglierebbe tra questi tre oggi? Verdini, senza dubbio. Non è solo un uomo di una certa e non scontata cultura, eppure uno straordinario organizzatore e motivatore. E poi il consiglio a Berlusconi: sono convinto, insomma, che ci voglia un po' più di sobrietà. A volte non guasterebbe, e non aggiungo altro, non guasterebbe. Ah, con un po' di sobrietà in più, chiede Fabrizio Roncone, non sarebbe accusato di prostituzione minorile e concussione? E no, scusi, non prenda le mie parole alla lettera. Io parlo di sobrietà in generale. Non so, per esempio, anche quando dichiara, quando parla, a volte Berlusconi esagera un po', no? Così si conclude l'intervista di Fabrizio Roncone a Marcello Dell'Utri. Mentre Bersani rilascia un'intervista a Repubblica, pagina 13, dicendo: non faremo passi indietro, il patto col terzo polo si farà. Parla di patto appunto col terzo polo, annuncia queste 10 milioni di firme raccolte, per le quali c'è anche stata una polemica, perché tra le varie firme raccolte ci sono anche quelle di Stalin, Hitler, Fidel Castro. E tra l'altro ironizza Bersani così: sono contento che abbia firmato Paperino, credo invece che contro Berlusconi non firmerà mai la banda Bassotti. E parla di tramonto del berlusconismo, l'avevo già detto un anno e mezzo fa, e riguarda queste firme: sapevamo che su internet ci saremmo esposti alla goliardia del centrodestra, ma chi vuole metterla in burla sbaglia. Abbiamo una certa esperienza di banchetti, non è mai stato così facile raccogliere adesioni. Questo dice Bersani, che rilancia l'idea del patto col terzo polo, mentre per quel che riguarda la riforma della giustizia, la riforma Alfano la definisce un diversivo populista. Beh, cosa c'è ancora molto di politica? Intanto Saviano, che è tornato in TV, ha attaccato Marina Berlusconi, mi attacca per paura, ha definito Berlusconi, leggendo queste carte d'inchiesta, mi dà l'idea di un nonno solo. C'è anche qualcosa sempre sull'inchiesta, per esempio Francesco Merlo parla dell'avvento delle mamme maîtresse. Anche a me ha colpito, no? Si leggono questi stralci di intercettazione. Le mamme, il ruolo dei genitori, soprattutto delle mamme, di queste figlie, che leggendo delle intercettazioni vanno a queste feste. E sentite anche per esempio Stefania Prestigiacomo, intervistata, ministro dell'ambiente, intervistata dalla Stampa, pagina 11. Parla un po' dell'8 marzo, lasciamo stare stavolta Ruby, e però dice: mi sono stata colpita dalle affermazioni dei genitori di queste ragazze, incoraggiate a farsi avanti per avere chissà quale fortuna o successo nel mondo dello spettacolo. È un aspetto abbastanza triste, che però è una realtà. Dobbiamo interrogarci come sia possibile che ci siano genitori simili. E così anche Francesco Merlo, con la sua prosa sempre molto ricercata, in prima pagina di Repubblica: le mamme maîtresse delle lupe di Arcore, la grande novità storica, sono le mamme istigatrici e complici, non le lupe di Arcore, ma queste mamme maîtresse che investono e lucrano sul sesso delle figlie, mamme che rompono la gabbia all'apparenza inespugnabile dell'identità italiana, della mamma chioccia, del son tutte belle le mamme del mondo, della sacra famiglia, vetrina dei valori della tradizione, il matrimonio possibilmente d'amore, la maternità, la dignità. Mi faceva sorridere mia madre quando mia sorella, che si truccava gli occhi, diceva: che cosa sono tutti questi buttanesimi? E Francesco Merlo inizia così a raccontare l'avvento delle mamme maîtresse. Si prende spunto da un'ultima intercettazione con una mamma di tale Lisa Toti che dice: oh, 6.000 euro, hai capito? 12 milioni delle vecchie lire. Una mamma che predispone strategie. Quando la figlia le racconta che lui mi vedrebbe bene lavorare in Publitania, una mamma realista, pratica, se poi va male pazienza, tanto va bene anche così. Insomma, le mamme maîtresse, stride un po' con l'articolo che il Corriere della Sera mette a pagina 2 e 3, è l'apertura, si parla di donne, alla vigilia dell'8 marzo, le donne tra maternità e lavoro sono dati dell'Istat che inchiodano l'Italia al fatto che le mamme italiane siano senza aiuti, lavora soltanto una su due. Un'impietosa classifica su dati dell'Istat, sempre se saputo che fare figli non aiuta e non concilia le donne con il lavoro, ma questa classifica dell'Istat è davvero una conferma molto molto dura. I due paesi in cui alle donne tra i 25 e i 54 anni con figli è più difficile lavorare sono Malta e l'Italia. Questo in Europa. La classifica le trovate su Il Corriere, pagina 2 e 3, con dei dati abbastanza impietosi. Oh, che devo dire? Devo chiudere. Sì, devo chiudere. Ho 30 secondi. Come non leggere? Ma sì, dai, leggo anche oggi la Gazzetta dello Sport. Certo, sarebbe stato più bello essere qua a fare la rassegna stampa domenica, ma comunque, la Gazzetta dello Sport, diavolo di un Eto'o. Questo è Eto'o, ovviamente, che è stato il protagonista della vittoria dell'Inter. Incredibile, 5 gol, tanti quanti punti in classifica di distacco dalla prima. 5 gol dell'Inter, Genoa in vantaggio a San Siro, ma poi si scatena l'attacco atomico dell'Inter. 5-2, sapete che Eto'o, tra l'altro, è stato pizzicato, noi l'abbiamo messo sulla pagina 24 mattino di Facebook, che implorava una vigilessa di non dargli una multa per divieto di sosta da 38 euro in via Monte Napoleone a Milano. E allora Gene Gnocchi sul rompipallone, prima pagina della Gazzetta, dopo la doppietta col Genoa, un'altra impresa di Eto'o, ieri sera ha trovato parcheggio. Nel sondaggio votiamo, parliamo di che cosa? Della piazza del 12 in piazza per difendere la Costituzione e la scuola pubblica. È necessario? Siete d'accordo con questa manifestazione? Votate su radio24.it, ora al GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8.21, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il protagonista della nostra intervista di oggi è l'eurodeputato Clemente Mastella. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a voi. Udeo Popolare per il Sud, ma allora si candida a Napoli, cioè è vero? Sì, confermato. Sindaco Mastella. Sindaco, diciamo, sono candidato, dopo di sì, certo. Possa diventare sindaco. No, volevo sentire come suonava, insomma, anche sì, per sì, lei, no, sindaco non, Mastella. Non suona male, confermo. Senta, ma dica un po', l'ha fatta apposta per contrastare De Magistris, no? No, cioè credo che sia stato un po' al solito una sorta di fatto innaturale quello della candidatura De Magistris, nel senso che le primarie, il modo come sono condotte le primarie nel centro-sinistra, a parte il PD in particolare, hanno determinato l'alibi, la discesa in campo di De Magistris, quindi approfitta ogni volta di tante situazioni, approfitta il suo stato come è stato con me di magistrato per candidarsi poi alle europee, questa volta approfitta del stato di salute non buono, diciamo, del PD napoletano per candidarsi. Ma un giorno dovrete, non lo so, cioè, perché effettivamente è un percorso, cioè, da quando vi siete incrociati, no, per vicende giudiziarie, entrambi eurodeputati, adesso sindaci, entrambi candidati sindaco, una vicenda anche un po' singolare, no, dei fili che vi tengono attaccati. Beh, insomma, sono le cose della vita, è una specie di strano destino e quindi come tale lo vivo in maniera serena per quanto mi riguarda, no? Non è che vado a ricercare chi è il candidato alternativo, chi sono i candidati in comparazione con me. Senta, prima di buttarsi però nella competizione elettorale, volevo fare due domande sulla questione. È la settimana della riforma epocale della giustizia, visto da uno che è stato ministro della giustizia. Che ne pensa? Ma questa riforma avviene in tempi sospetti oppure ci vuole? Ma che ci voglia una riforma della giustizia bisogna fare abbastanza evidenti. Io stesso ho tentato, tant'è vero che ne ho determinato attraverso l'ordinamento giudiziario un cambiamento di modalità, però questo ha riguardato soltanto la struttura all'interno del modo di procedere itinerario giudiziario. Ora si tratta di rendere più scorrevole il rapporto, insomma di arrivare a quella giustizia giusta alla quale si fa riferimento e rispetto alla quale ci sono indicazioni ben precise anche da parte dell'Europa. Ora che si realizzi con modalità come avviene ora, resto un po' perplesso, la semplice ragione che tocca gangli costituzionali e quindi evidentemente con una doppia lettura di Camera e Senato, esatto. E dopodiché referendum confermativo. Cioè, per esempio, alcuni punti in discussione, la responsabilità civile dei giudici ci vorrebbe, dei magistrati? Ma una forma di responsabilità certamente sì, quando insomma, come dire, è palese il fatto che insomma la scelta del giudice e del giudice è una scelta dettata da alcuni elementi che sono un pregiudizio o un momento di natura ideologica. Pensi appunto ai casi dei magistris, mi mise sotto inchiesta ad esempio in quel di Catanzaro, e dopodiché la lettura finale del resoconto a parte il GIP era che su di me non c'è notizia di reato. Ora, un giudice che fa così, beh, ha bisogno di essere considerato responsabile, non solo civile ma anche penale, secondo me. E poi la separazione. Viceversa, però bisogna stare attenti, perché se tu responsabilizzi, il giudizio non diventa più sereno da parte del magistrato. Certo. L'obbligatorietà dell'azione penale, cioè deve essere obbligatorio oppure discrezionale? Guardi, su questo è molto discusso, cioè nel senso che secondo me è giusta l'obbligatorietà, però se spesso diviene a discrezione, cioè nel senso ci sono quelli che indulgono andare avanti rispetto ad alcuni rispetto ad altri. Quindi questo è l'elemento. Probabilmente come capita in altri paesi europei, cioè potrebbe essere il Parlamento che dà indicazioni sulle priorità da scegliere durante l'anno, insomma. Il Parlamento con dei reati considerati più evidenti macroscopici, cioè durante l'anno la lotta alla criminalità più forte si incentiva soprattutto là, se l'anno è quello della lotta alla sofisticazione lo fai su quello, cioè stabilendo un po' dei criteri e delle priorità. Senta, Mastella, lei si dimise quando ci fu la sua vicenda giudiziaria per farsi processare. Ora c'è chi dice, non so, qualcuno potrebbe dire, allora Berlusconi dovrebbe fare uguale. No, Berlusconi dice no, io non mi dimetto. Lei ha scelto questa strada, la rifarebbe? Non so se è quella più giusta, devo dire. Io sono anche andato a fare posizione spontanea. Però io poi tra l'altro mi trovo ora davanti Berlusconi, sa che nei prossimi giorni la Corte Costituzionale deciderà sul conflitto attribuzione che mi riguarda direttamente, che il Senato ha fatto all'unanimità. Ora io spero che la Corte decida con saggezza e con serenità, e rispetto all'unanimità del Senato non è che dichiari inammissibile il conflitto di attribuzione di competenza funzionale come nel mio caso. Già la Cassazione si è espressa in maniera un po' diversa, per la verità. Però Berlusconi dovrebbe presentarsi, secondo lei, cioè dovrebbe Io lo farei, fossi lui lo farei, cioè nel senso che è così, e quindi cioè io l'ho fatto, ho fatto posizione spontanea. Pensi che io sono andato a posizione spontanea, peraltro la natura dei miei reati era che io avrei fatto ad esempio una forma di pressione per far diventare una persona primario, poi si è scoperto che già era primario da 3 anni, insomma, ci sono anche queste però cose, lei ancora, nel mio caso, in realtà un po' particolare. La sua vicenda giudiziaria non è conclusa, nonostante non è conclusa, ripeto, e poi c'è questo dato che non vorrei che per fregare Berlusconi magari freghino me, cioè quello del conflitto di competenza davanti alla Corte Costituzionale. Spero che la Corte dichiari ammissibilità, perché sono alcune cose un po'. Diciamo il fatto che la Corte abbia detto e rilevato che era meglio andare alla Cassazione e poi si è scoperto che la Cassazione ha già deciso da questo punto di vista, troppe parole un po' in libertà negli ultimi tempi, insomma non vorrei che per fregare il cavaliere insomma ci capiti davanti. Fregano me, libero l'ha messa così nei giorni scorsi. Detto questo, nel concludere, lei il fatto che sia indagata, cioè sotto processo, il fatto la candidatura non è un problema, candidatura a Napoli. Guarda che sotto processo anche dei magistris, stato querelato da me 8 mesi che non si presenta al Parlamento Europeo per essere giudicato e per andare al Tribunale Italiano, e proprio in questi giorni mi sono costituito parte civile rispetto a De Magistris per la vicenda che riguarda le intercettazioni illegali che lui e Genghi fecero con me e con Prodi. Quindi come vede due indagati napoletani e De Magistris, perché De Magistris poi dice agli altri di presentarsi in tribunale ma lui non si presenta, tanto per essere estremamente chiari. Le chiederò anche a lui quando ce l'avremo. Sì, gli chiedo questo, come non ti presenti, ha detto Marcello, come non ti presenti al Parlamento Europeo, alla Commissione Giuridica che deve giudicare, sono 8 mesi che non va. Perfetto. Poi tra l'altro quello che sto dicendo, a Romolo è sotto inchiesta, nel senso che è stato indagato e rinviato a giudizio, e il GIP proprio l'altro giorno mi è arrivata questa lettera diciamo azzurrina, verde azzurro, che quando ti arriva ti spaventa un po', da quello che ho visto io questa volta, per fortuna era quello richiesto a me di essere diventavo parte civile, cosa che io farò evidentemente. Vabbè, quindi dice al limite siete in buona compagnia, diciamo, a livello di indagini. Quindi come vede non è che puoi emettere giudizi nei confronti politici che siano. Va bene, la ringrazio Mastella, buona giornata. A voi, Clemente grazie, Mastella, eurodeputato, grazie per essere stato con noi, ci fermiamo per la pubblicità e poi nel nostro sondaggio parliamo di manifestazione, il 12 marzo, per la verità è un periodo di piazze affollate, come titola oggi l'Unità. Comunque, 12 marzo in piazza per difendere la Costituzione e la scuola pubblica, è una manifestazione che sentite necessaria, giusta, siete d'accordo con questa manifestazione? Di questo parliamo oggi nel nostro sondaggio, votate su radio24.it, telefonateci se volete 800 24 0024, tra poco 24 mattino. Alle 8.34 in questo istante, ecco allora il nostro sondaggio, il 12 marzo in piazza in difesa di Costituzione e scuola pubblica, siete d'accordo? È una manifestazione giusta? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Su radio24.it votate, il 61% di voi per ora dice di sì, c'è necessità di questa manifestazione, di andare in piazza, come titolo oggi l'Unità in prima pagina, piazza continua, domani l'8 marzo, poi il 9 marzo manifestano gli avvocati, il 12 marzo scuola e Costituzione per l'appunto, il 17 marzo la festa dell'Unità d'Italia, e tra l'altro c'è Veltroni, questo lo aggiungo io, Veltroni che dice ma in piazza per la Libia, non andiamo in piazza per difendere i patrioti libici? Ne parliamo con Norma Rangieri, direttore del Manifesto, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. E Filippo Facci, giornalista di Libero, buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Allora, Norma Rangieri, c'è davvero bisogno di questa piazza continua, di questa manifestazione per la scuola pubblica? Poi vedremo che cosa ha detto, sentiremo cosa ha detto anche nel weekend Berlusconi, che è tornato su queste accuse, dice io non ho mai attaccato la scuola pubblica. Norma Rangieri. Beh, chiedi all'oste se... Buone, no, vabbè, certo. Perché il perché di questa manifestazione? Tutti i giorni, fosse per me in questa situazione, in questa fase, quindi penso che in particolare per difendere la Costituzione, che è l'unico, diciamo, l'unica carta che ci è rimasta, l'unico momento attorno a cui riunirsi, vista la situazione in cui è la politica di destra e di sinistra, voglio dire, in cui sono i partiti. Diciamo, se uno dovesse pensare a come ricostruire una politica e una coesione sociale, ha come riferimento ovviamente, meno male, la carta costituzionale. E perché in piazza? Perché in piazza tutti i giorni? Ma in piazza perché non c'è un'asfissia della politica, no? Cioè, si vede che rispetto alle dinamiche democratiche generali, quindi parlamentari, quindi nelle società moderne con l'informazione, non si riesce a modificare assolutamente nulla e anzi c'è sempre un collo di bottiglia, un restringimento per cui l'unico momento in cui uno si ritrova ad avere voce, visto che la situazione è molto di regime mediatico, quindi la voce, la possibilità di parlare, di farsi ascoltare, è sempre più delegata alla piazza, sempre più in presa diretta, diciamo, sempre più realtà e meno reality, come dire. Regime mediatico, un'espressione dalla quale voglio partire da Filippo Facci, aggiungendo questo. Berlusconi, allora, per quel che riguarda la scuola, nel weekend ha detto io non ho mai attaccato la scuola pubblica, ho solo detto, parlando a dei cattolici, che bisogna riconoscere alle famiglie cattoliche che mandano i figli alla scuola pubblica il diritto a non vedere insegnati ai loro figli valori diversi da quelli in cui credono. Vabbè, nel passato aveva usato la parola inculcati, sulla quale anche oggi Luigi Berlinguer sull'Unità dice si scaglia. In ogni caso, Filippo Facci, difesa della scuola pubblica, la piazza tutti i giorni, quella in cui andrebbe Norma Rangieri, perché c'è un regime mediatico e quella è l'unica strada. Ci sono temi molto diversi di cui discutere. Berlusconi la scuola l'ha attaccata più che altro con la politica che ha fatto negli ultimi anni, indipendentemente, voglio dire, dall'esegesi delle frasi che pronuncia, che poi smentisce regolarmente. Sulla base di una frase non bisognerebbe né andare in piazza né non andarci, insomma. Per quanto riguarda le manifestazioni, io ho una posizione, come dire, radicale, cioè non sono d'accordo con quanto detto Norma Rangieri, nel senso che ormai mi chiedo da molto tempo, dire il vero, che cosa siano ormai le manifestazioni oggigiorno nel 2011, chi ci partecipi. certo, servono a chi le fa, a coagulare gli animi, a finire sui giornali, in televisione soprattutto, questo è il punto, cioè, perché nessuna manifestazione ormai è una vera manifestazione per come era intesa un tempo, quando era l'unico strumento democratico, sono tutte delle grandi e immense conferenze stampe, dei richiami votati a ottenere uno spazio mediatico che sia la rappresentazione di una realtà che non coincide necessariamente con tutta la realtà, cioè una volta appunto, l'abbiamo detto, le manifestazioni avevano una funzione democratica insostituibile, oggi non sono più l'unico modo di far sentire la propria voce, non è vero, non sono più una vera sfida al potere, sono il periodico appuntamento di un ricorrente gruppo di persone che sono sempre quelle da 15 anni più ovviamente qualche innesto generazionale, e che ogni tanto si ritrova anche per fare un po' di casino, gli striscioni, le bandiere o senza bandiere, insomma un certo tempismo, senso della notizia, poi ci sono i balletti delle cifre che sono sempre più grotteschi, insomma il ruolo delle minoranze rumorose è diverso rispetto a una volta, e appunto per concludere la copertina che hai citato prima dell'Unità, Piazza Continua, sì. È l'8 marzo, è il 9 marzo, e gli avvocati, la festa delle donne, e la scuola, e l'Unità d'Italia, sono tutti più, basta vedere i comunicati, più contro qualcosa è sempre quello che a favore di qualcosa. Sì. Per il resto facciano tutte le manifestazioni del mondo, però la cosa più importante l'ha detta Veltroni. Quella della Libia, cioè che manca, sì, manca, che in manca tutto, cioè, si manifesta veramente per tutto, nessuno si è ricordato che dietro casa ci stanno trucidando un intero popolo, insomma questo è il vero indice del vero obiettivo di tutte queste manifestazioni, che sono legittime, però insomma diamo loro il nome che hanno. No, ma per carità, legittime, questo sì, e vorrei appunto, Norma Rangeli, la questione del regime mediatico, cioè andare in piazza perché non c'è altro modo, in realtà mi sembra che sia ormai la società aperta, talmente aperta, una piazza continua, cioè io vedo giustamente di interscambio da Facebook, dai nuovi sistemi di comunicazione. Cioè si va in piazza in realtà per tutto, e per carità, ma va bene, cioè nel senso non è una contestazione, però che come hanno dimostrato gli studenti, i ricercatori, il movimento dell'università, sì. Che tutti i nuovi mezzi di comunicazione come i social network sono attivati e sono svegli e sono in rete e contribuiscono a rendere diverse queste manifestazioni che nascono fuori dai partiti, mentre tradizionalmente negli anni passati, nei decenni passati, i partiti avevano una presenza e le manifestazioni erano molto etichettabili e fatte, organizzate dai partiti o dai sindacati. Questa volta invece si sta manifestando, ma non da ieri, insomma. Mi ricordo nel 2002 per esempio la grande manifestazione dei girotondi a Piazza San Giovanni, che era stata una cosa assolutamente spontanea e non determinata o influenzata dai partiti. Adesso questa tendenza è la radice nuova di questo modo di protestare, perché appunto è fatta intanto molto dai giovani, intanto molto attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione che aggirano il monopolio terreo della informazione in Italia e danno anche il segno di qualcosa che è contro, di critica forte alla politica dei partiti per come sono oggi in però Italia. Visto che uno degli aspetti è quello della scuola, le chiedo, Rangeli, la questione è questa: quando Berlusconi dice parlando ai cattolici voglio che le famiglie cattoliche che mandano i figli alla scuola pubblica abbiano il diritto a non vedere insegnati ai loro figli valori diversi da quelli in cui credono, è un'accusa forte. Vorrei specificare che Berlusconi non ha detto la scuola pubblica, mi pare abbia detto la scuola di Stato, che è molto diverso, perché la scuola di Stato nella prima versione ha detto la scuola pubblica. Sì, nella prima versione ha detto la scuola di Stato. L'altro ieri, non so se rettificando, ha detto no, scuola pubblica. È uno slittamento semantico non indifferente, no? Perché significa che la scuola pubblica lui la considera una scuola, non lo so, sovietica, stalinista, non lo so. Ma invece in Italia la scuola pubblica è pubblica perché ci possono andare tutti, poveri e ricchi, sì, certo. Gente di città e gente di campagna, come si diceva una volta. Quindi Questo è importante specificarlo, anche perché certe volte appunto la cosa di dire della libertà, no? La libertà di mandare i figli dove si vuole, d'accordo, ma innanzitutto la libertà di avere una scuola che accoglie tutti, per una scuola dove non bisogna per forza pagare per essere accolti. E mi sembra un attacco questo di Berlusconi che nasce dal cuore, come dire, cioè una cosa proprio che gli viene dal profondo e non solo a lui, purtroppo, perché se il problema fosse solo Berlusconi non sarebbe facile risolverlo. Purtroppo c'è una larga parte del paese che viene che è d'accordo. Non dimentichiamoci che noi siamo il paese che si è inventato Mussolini, perché ogni tanto si dimentica la storia. Beh, che c'entra, no? E noi torniamo in piazza per la Costituzione anche perché invece vogliamo ricordare la nostra storia. Vabbè, facci, non so, un commento su questo, il fatto che di Mussolini. Insomma, no, Mussolini lasciamo stare, cioè, penso che abbiamo fatto in tempo a conoscere abbastanza Berlusconi da sapere che insomma veramente lui se ne è il primo, insomma se ne fotte degli slittamenti semantici, su via. Berlusconi non è così scientifico, non c'è tutta questa intelligence dietro certe estemporanee uscite che fa, il che non toglie che magari certi problemi siano veri e siano legati al fatto che si vuole più tutelare magari la scuola di matrice cattolica e religiosa rispetto alla scuola pubblica o di Stato che sia, mentre io non entro nel merito delle questioni specifiche della scuola, per carità, ci manca solo la mia di opinione, però sul fatto, chiedo scusa, che insomma la politica ci sia di mezzo. Adesso io, mentre parlavate, mi sono andato a vedere il comunicato, l'ultimo comunicato sulla manifestazione per cui credo siamo stati invitati a partecipare a questa trasmissione, quella del 12, inizia così: l'assalto di Berlusconi alla scuola pubblica è un altro colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dopodiché si spiega che la manifestazione senza bandiere di partito, paradossalmente, viene da un'idea di Franceschini, segue una dichiarazione di Giulietti, una di Bocchino, Vendola, Di Pietro e la Federazione della Sinistra. Quindi insomma, come posso dire, anche volendo e anche guardando alla buona fede dei tanti che possono avere a cuore il positivo della manifestazione, c'è sempre questo negativo, cioè il contrast che rovina tutto, per cui alla fine c'è sempre, alla fine vedremo anche a questa manifestazione che insomma una manifestazione contro Berlusconi. C'è una manifestazione contro Berlusconi, come quello che si è detto sulla manifestazione delle donne. Dice, avessero detto che in realtà era una manifestazione contro il governo, era più chiaro. Però questo so che è contestato, ma abbiamo dedicato una trasmissione anche a quello. Andiamo alle informazioni sul traffico, poi sentiamo anche qualche ascoltatore cosa ne pensa. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 60% a favore della manifestazione il 12 marzo. Voglio sentire all'800 24 0024, ci hanno chiamato in molti, ci chiamano. Grazia da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho 67 anni, ho frequentato la scuola privata e conoscendolo ho giurato a me stessa che i miei figli non avrebbero mai frequentato una scuola privata perché ho visto di quelle ingiustizie enormi. Comunque, qui lei mi spiega perché molti figli di ricchi che frequentando la scuola pubblica sono degli emeriti avini, andando alla scuola privata diventano brevissimi? Nessuno se l'è mai chiesto, ma perché? Perché pagano, perché pagano. Noi andiamo avanti così, andando alla scuola pubblica non solo dovremo pagare la carta igienica, ma pagheremo, ma i nostri figli per andarci dovranno pulirsi anche i cessi. Io comunque a 67 anni, per la prima volta in vita mia, sono andata in piazza al giorno in cui sono andate le donne, che non avevano gli uomini. E il 12, sente questa necessità. No, dico, il 12 sente questa necessità di difendere la scuola pubblica perché la sente sotto attacco? Pratico che abbiamo di combattere l'attuale Stato. Sì, cioè, ma lei sente la necessità, le chiedo questo, quindi il 12 sarà in piazza perché la scuola pubblica la sente sotto un attacco insomma veemente. Un attacco finché continueremo a finanziare la scuola privata che non ne ha bisogno, si finanzia da se stessa, pagano una grossa retta per mandare i figli alla scuola privata e più pagano più sono bravi, perché è così. Il povero io avevo con me in classe una povera bambina cui padre era in galera e alla scuola privata faceva la terza elementare perché non pagava la retta, le suore le facevano pulire i cessi. Io ho visto queste cose e mi sono rimaste impresse. Io avevo di fronte a me un collegio bresciano noto e si sapeva tutti che c'era un preside che... No, qui non era questione di denaro, era un'altra cosa. Vabbè. Ma se i bambini andavano da quel preside... Se erano asini uscivano bravi. Mi lei perché? No, no, va bene. La ringrazio per questo suo intervento. Grazie. Roberto, dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io sono d'accordo con la manifestazione del 12, perché ritengo ci sia bisogno di rimettere davvero il problema della scuola pubblica al centro delle attenzioni. Si può dire tutto quello che si vuole. Io ho avuto un'esperienza come presidente del consiglio d'istituto, oggi presidente del comitato dei genitori, e vi posso assicurare che i bilanci delle scuole, le risorse sono pesantemente tagliate, il numero dei docenti vengono ridotti e i bambini per ogni classe vengono aumentati. Questo non è un mettere in discussione la scuola pubblica, questi sono i dati di fatto. Va bene, Roberto, grazie. Fabrizio da Roma. Buongiorno a tutti. Dica. In risposta a quest'ultimo intervento si potrebbe semplicemente osservare che i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni sono tagliati per esigenze purtroppo indefettibili oggi dei bilanci pubblici, che non ce la fanno più a sostenere gli stessi ritmi del welfare, e non ce la fanno più perché erano sovraproporzionati rispetto alle entrate fin dagli anni 70, quindi diciamo che qui la risposta è semplice. Vorrei però anche dire, il mio intervento era motivato da questo, che la sua ospite diceva che la scuola privata si paga e quindi non è pubblica per questo, ma si paga anche la scuola pubblica e si paga non solo con le poche tasse di ingresso, ma con la fiscalità generale. Ma quindi lei come la vede la questione del 12? È una manifestazione giusta, una manifestazione strumentale, è una manifestazione contro Berlusconi, camuffata da qualcos'altro? Questo è un pronunciamento che vorrei astenermi. Che succede? Dica la sua. Non succede niente. Ma non è per paura di dire la mia, è per paura di malinterpretare le intenzioni magari migliori di quello che sembrano di chi partecipa. Soltanto per rispetto. No, ma è stato chiarissimo, Fabrizio, perché altrimenti. Filippo Facci, la questione è questa: l'idea che molti hanno nell'opinione pubblica è che sia un tramonto del berlusconismo in una lunga fase politica e che quindi ci possa essere la spallata finale da dare attraverso anche l'utilizzo della piazza, questa pressione mediatica continua. Può essere anche questa una lettura per cui tutti in piazza tutti i giorni? Sì, certo, può essere una lettura assieme a tutte le altre. Non è che ciascuna lettura elimini le altre. Non è che per forza le manifestazioni alle quali io non sono contrario di per sé, voglio chiarire, siano univoche, sono tutto, sono in buona fede e in cattiva fede, sono la ricerca di strumentalizzazione politica solo per dare una spallata a Berlusconi e sono anche la buona fede dello studente diciottenne che pensa veramente che siano sorrette da questioni ideali, sono delle immense conferenze stampa e sono invece qualcosa di magari positivamente spontaneo. Aggiungo, perché è l'unica cosa in realtà che ci terrei a dire in questo spazio, che c'è un ventaglio di manifestazioni per ogni argomento e non solo non è ancora stata organizzata quella sulla Libia, ma mi sarebbe tanto piaciuto, ma tanto, che ce ne fosse stata una o ce ne sia una contro questa vergogna senza precedenti, perlomeno nella mia vita da professionista e da cittadino italiano, che si accinge ad essere la legge sul testamento biologico. Nel caso, e purtroppo devo specificare che sto facendo ironia, mi hanno spiegato, cioè nel caso a fare la manifestazione ci vado anch'io, mi do pure fuoco e entro in clandestinità e rifondo le Brigate Rosse se necessario. Come si vede, ciascuno ha un proprio punto debole, un punto di non ritorno della propria indignazione, ed è proprio per questo che talvolta può dar fastidio che venga mischiata la strumentalizzazione politica di chi invece fa manifestazioni quasi da mestierante. Per concludere, Norma Rangeli, lasciamo stare il testamento biologico, di cui ci occuperemo, ce ne siamo anche occupati, ma la questione della Libia effettivamente è una questione per la quale Veltroni dice che cosa? Una castroneria oppure con tutti in piazza di Libia nessuno ne parla? Da prima volevo togliere di mezzo un grosso sì. Fraintendimento, nel senso che sembra che andare in piazza contro Berlusconi significa essere strumentalizzati. No, no, no. Andiamo in piazza contro Berlusconi, non c'è dubbio. La manifestazione del 12 è contro Berlusconi. No, questo per chiarire che questa è una profonda convinzione di tutte le persone che vanno in piazza. E la Libia? E la Libia, io penso che sulle questioni internazionali e su quello che sta succedendo in Nord Africa bisognerebbe scendere in piazza, bisognerebbe fare convegni, bisognerebbe discutere, bisognerebbe portarlo all'ordine del giorno, perché sta cambiando il mondo e la società civile si incaricherà di fare anche questo, visto che la politica non lo fa. Io sono assolutamente d'accordo. E il manifesto sono 20 giorni che in pratica apre la sua prima pagina sulla Libia, sull'Egitto prima e sulla Tunisia privilegia questo fatto enorme. Beh, ma questa politica internazionale, questa attenzione alla politica internazionale, esatto, d'altro dal manifesto c'è sempre stata. Io vi devo fermare ringraziandovi Norma Rangeri, direttore del manifesto, e Filippo Facci di Libero per essere stati con noi. Continuate su Facebook nella nostra pagina 24 Mattino a seguirci, a mettere mostrarci, insomma dite la vostra come state già facendo in molti. Ringrazio Filippo Aureggi intanto in parte tecnica, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, e che dire, dando la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina alle 7:20.